Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. EMA Scientific Committee met today and recommended a conditional marketing authorization in the EU for the vaccine developed by BioNTech and Pfizer. Eccolo qui l'annuncio che tutti stavamo aspettando, il via libera dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, subito dopo anche della Commissione Europea, all'emissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech. La voce era di Emer Cook, direttrice esecutiva dell'agenzia. Buona serata da Valentina Furlanetto e da tutta la redazione di GR24, puntata ricca di ospiti e notizie. Nei prossimi 60 minuti ci collegheremo con Londra, con alcuni italiani che dovevano tornare in Italia ma sono bloccati in Gran Bretagna. Come sapete i voli sono bloccati. Ma c'è anche un collegamento con la nostra corrispondente che ci racconta una Londra deserta in preda all'ansia. Parleremo anche dell'andamento della pandemia in Italia, ci occuperemo della situazione di Patrick Zacchi, infine lo sport. Finalmente una buona notizia con la Alex Zanardi che migliora. I numeri per mandarci dei messaggi sono 349-238-6666, ma prima di passare alle notizie della giornata, un'ultima ora di ANSA. Dice il Premier Conte sulla Task Force, che sapete dovrebbe gestire i fondi del Recovery Plan, occorrerà, dice Conte, una riflessione ampia e condivisa. È chiaro che avremo bisogno di qualche strumento che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Unione Europea, che vuole un monitoraggio puntuale, concentrato e centralizzato. In pratica Conte ammette quello che si dice da un po' di settimane, che la task force di cui si parla e che rischia di far traballare il governo è una richiesta dell'Unione Europea, ma, dice Conte, non sarà invasiva. Ovviamente questo farà discutere, ma ora un riassunto delle notizie della giornata. Von der Leyen, vaccino dal 27 in tutta Europa, sarà un'infermiera dello Spallanzani di Roma la prima a riceverlo in Italia. Variante inglese è bando di oltre 40 nazioni ai voli dal Regno Unito. L'OMS però rassicura, non è fuori controllo. Movimenti di Natale si ricambia nei giorni rossi, visite anche fuori dal comune. Numeri stabili, 415 le nuove vittime. Patrick Zacchi in carcere da oltre 10 mesi, incontra la madre e si sfoga. Sono fisicamente esausto e depresso. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo abbiamo detto all'inizio, ha annunciato il via libera all'immissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech dopo il via libera dell'EMA. È la prima volta nella storia che si avvia una procedura che riguarda oltre 400 milioni di persone, per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni, ha insistito la Presidente della Commissione Europea. L'Europa si prepara ad avviare le vaccinazioni contro il coronavirus subito dopo Natale, in seguito al via libera dell'EMA al vaccino Pfizer-BioNTech. I am delighted to be here and to announce that tra il 27 e il 29 dicembre i primi vaccinati, in quella che si prevede una partenza simbolica seguita nei diversi paesi da una maratona che durerà mesi. Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante Covid-19, ha detto Emer Cook, direttrice esecutiva EMA. La Cook garantisce anche sulla sicurezza ed efficacia del vaccino, che ha ricevuto in serata la benedizione della Commissione Europea, ultimo step burocratico di approvazione per la sua commercializzazione. Marco Cavalleri, responsabile unità minacce biologiche e strategia vaccinale all'EMA, precisa: per costringerci ad aggiornare il vaccino con i nuovi ceppi, il virus dovrebbe cambiare in modo sostanziale. Altro fronte aperto per l'Europa, i collegamenti con la Gran Bretagna, epicentro della nuova mutazione. Gli esperti comunitari appoggiano un approccio coordinato, ma chiedono di tenere aperte le frontiere interne di Schengen. Sorprende in questo senso la dichiarazione del sottosegretario all'interno di Sibiglia, che ipotizza uno stop ai voli anche con Olanda e Lussemburgo. Questo mentre il Regno Unito è sempre più isolato, sono ormai oltre 30 i paesi, la metà dei quali europei, ad avere chiuso i collegamenti aerei. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le scorte di prodotti alimentari e generi essenziali a disposizione del Regno Unito sono solide e robuste, malgrado il blocco temporaneo alle frontiere imposto dalla reazione precauzionale degli altri paesi alla cosiddetta variante inglese del Covid. Lo ha detto il Premier Boris Johnson nella conferenza stampa di questa sera, ribadendo che il governo sta lavorando con gli amici europei, Francia in primis, per definire protocolli di sicurezza sanitaria ad hoc e ripristinare rapidamente il traffico merci attraverso la Manica. Le principali borse europee hanno mandato in fumo 202,63 miliardi di capitalizzazione in un solo giorno. È l'effetto delle forti vendite iniziate nella mattinata a seguito dei timori per la variante del Covid-19 isolata in Gran Bretagna, per il rischio di chiudere tra 10 giorni la trattativa tra Londra e Bruxelles senza raggiungere un accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e per ulteriori cali del greggio. Sale ancora al 12,3% la percentuale di tamponi positivi, con altri 415 decessi, e c'è attesa per il giorno del vaccino, il 27 dicembre. L'Italia partirà da un'infermiera dello Spallanzani di Roma e dagli operatori sanitari. Chi si rifiuta di farlo dovrebbe fare un passo indietro e cambiare mestiere, ha detto Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Sarà un'infermiera dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, la prima vaccinata d'Italia. Sarà lei a inaugurare il Vaccine Day del prossimo 27 dicembre, lì dove l'incubo è iniziato con i primi 2 casi di Covid-19, ovvero la coppia di turisti cinesi, poi curati e dimessi dallo stesso istituto. L'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato. La prima sarà un'infermiera, è una, diciamo, delle nostre tante infermiere che in questi mesi hanno fatto un lavoro straordinario e stanno nella retroguardia, ed è giusto guardare a loro in maniera prioritaria in questa fase. E lo stesso Spallanzani ha avviato la procedura per isolare la sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante inglese, un nuovo ceppo che gli esperti definiscono più contagioso, ma allo stato, spiega il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, questo non vuol dire un aggravamento della malattia o della letalità e soprattutto il vaccino non è messo in discussione. Intanto aumenta ancora in Italia la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, oggi pari al 12,3%. Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus, con circa 88.000 tamponi, 50.000 in meno di sabato, e altri 415 i decessi. Ancora negativo il saldo dei ricoveri. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da oggi stop agli spostamenti al di fuori della propria regione, con il lockdown nazionale che scatterà invece dal 24 dicembre. Con lo stop agli spostamenti fra regioni, l'Italia si prepara alle festività di Natale nell'era del Covid. Il divieto resterà in vigore fino al 6 gennaio. Le uniche deroghe sono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sempre possibile anche il rientro nel proprio domicilio. Da giovedì 24 dicembre scatterà poi il parziale lockdown nazionale deciso dal governo per scongiurare una terza ondata di contagi. Tutta Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e festivi, arancione invece in quelli feriali, con le conseguenti limitazioni per gli spostamenti anche fra comuni e la chiusura di bar, ristoranti e parte degli esercizi commerciali. Il lockdown si concluderà il 6 gennaio, dal giorno seguente il paese tornerà in zona gialla, riapriranno anche tutte le scuole con la didattica in presenza al 75%, questione sulla quale il governo è ancora al lavoro con regioni e prefetture per garantire un rientro in classe in sicurezza anche sul fronte del trasporto pubblico locale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una guida per orientarsi nel dedalo di colori e regole diverse che ci aspettano la fornisce il governo, che sul sito ufficiale, aggiornando le domande più frequenti, chiarisce le misure introdotte dal decreto Natale che riguardano gli spostamenti. Nei giorni rossi, festivi e prefestivi, in tutto 10, da qui al 6 gennaio, sarà possibile spostarsi per fare visita a parenti o amici verso altri comuni, ma all'interno della stessa regione. Sarà consentito solo uno spostamento al giorno, vale a dire che a Natale, per esempio, sarà impossibile pranzare in una casa e poi cenare in un'altra. Potranno spostarsi in visita solo 2 persone, che potranno comunque portare con sé figli minori di 14 anni e persone non autosufficienti conviventi. Sarà necessaria l'autocertificazione, in cui dovranno essere specificate gli indirizzi di partenza di arrivo, il tutto rispettando il coprifuoco attivo sempre dalle 5 alle 22. Nei giorni delle feste indicati in arancione, in tutto 4, sarà possibile, ma solo per chi risiede nei comuni sotto i 5.000 abitanti, spostarsi in un'altra regione, sempre però entro i 30 km della propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Quanto al ricongiungimento con il coniuge o il partner, sarà possibile se il luogo scelto coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione. Resta sempre libero, a prescindere da colori o coprifuoco, il rientro verso la propria residenza o domicilio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Recovery è tenuta del governo, Conte non riesce ancora a chiudere la partita e il governo naviga nell'incertezza. Arginare le sirene di Italia Viva e l'insofferenza del PD. Il premier Giuseppe Conte convoca la maggioranza a Palazzo Chigi sul recovery plan. Incontra nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle e poi il PD. Oggi non si chiude nulla, dice, ma inizia un'interlocuzione. Al di là della discussione politica e delle polemiche anche che ci sono in questi giorni, dobbiamo assolutamente riprendere con la massima lena, col massimo vigore, la discussione sul recovery plan italiano. Non ci possiamo permettere agli occhi dei cittadini di ritardare oltre. Assicura ai pentastellati che nel recovery plan ci sarà anche la riforma della giustizia e che sarà il pilastro. Il piano nazionale poi rifletterà le indicazioni del Parlamento. Intanto, dopo una maratona di 2 giorni, il testo della manovra approda nell'aula di Montecitorio, dove il governo porrà la questione di fiducia. Arrivano 100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del bonus Smart TV. Ci sarà la proroga del super bonus ristrutturazione fino al 2022, possibilità di pagamenti fino al 100% per chi è stato danneggiato dalle banche, ma spunta anche l'aumento di 10 euro per la revisione dell'auto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un attentato è stato sventato questa sera ad uno degli ingressi della spianata delle moschee di Gerusalemme. Secondo quanto annunciato la polizia israeliana, secondo questa ricostruzione, un palestinese armato ha attaccato 2 agenti israeliani. Gli agenti hanno reagito e l'assalitore è morto. Oltre 10 mesi in carcere, Patrick Zaki sabato ha incontrato la madre. Sono fisicamente e mentalmente esausto e depresso, queste le parole del figlio alla madre, così si è rivolto a lei Patrick Zaki nella prigione di Tora, dove lo studente egiziano dell'Università di Bologna è detenuto da mesi. Non ne posso più di stare qui e mi deprimo a ogni tappa importante dell'anno accademico, aggiunto, mentre sono qui invece che coi miei amici a Bologna. Il messaggio è stato pubblicato su Facebook da un gruppo a sostegno di Patrick Zaki. Anche nella sua ultima lettera datata 12 dicembre, Zaki aveva lamentato problemi alla schiena e parlato di un suo stato mentale definito non un gran che. Ieri il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha dichiarato: siamo al lavoro per far liberare Patrick Zaki e riportare in Italia Chico Forti, siamo impegnati per la verità per Giulio Regeni e Mario Paciolla morto in Colombia. E poi Di Maio ha concluso: è il momento che l'intera Unione Europea si schieri sui diritti umani, in particolare sui casi Regeni e Zaki. La donna racconta che durante la visita Patrick non era affatto se stesso, ci ha letteralmente spezzato il cuore, ha detto. Inoltre si legge nella dichiarazione che raramente Patrick esce dalla sua cella durante il giorno, e la famiglia conclude con un appello: restituiteci il nostro figlio, restituiteci tutte le nostre vite. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La causa scatenante del crollo del ponte Morandi è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante sud lato Genova della Pila 9. Lo scrivono i periti del GIP nella relazione sulle cause del disastro avvenuto il 14 agosto 2013 e ha causato la morte, lo ricorderete, di 43 persone. Oltre alla corrosione a determinare il crollo sono stati anche i controlli e le manutenzioni che, se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità, si legge, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento. Ancora morti per esplosivo in Abruzzo e ancora un incidente per la esplodenti Sabino di Casal Bordino. I 3 morti di oggi sono gli ultimi di una drammatica serie. È ancora da chiarire la dinamica che ha portato alla violenta esplosione avvenuta oggi nel primo pomeriggio in una fabbrica di Casal Bordino in provincia di Chieti, un incidente nel quale hanno perso la vita 3 operai della Esplodenti Sabino, l'azienda di Contrada Termini che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche, come ci confermano i vigili del fuoco di Chieti, i primi ad intervenire sul posto. tratta di uno stabilimento che lavora per lo smunizionamento di armamenti militari, quindi recupera dell'esplosivo da armamenti dismessi. Sostanzialmente stiamo cercando di evacuare tutte le persone a distanza di sicurezza. A causa delle fiamme che si sono propagate nella zona, è stato necessario interrompere il traffico ferroviario tra Fossa Cesia e Vasto e quello stradale sulla statale 16 Adriatica in direzione sud. L'area è stata chiusa e la prefettura ha disposto lo sgombero della fabbrica che occupa diverse decine di dipendenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo avete sentito durante i titoli, la variante inglese del virus preoccupa molto tutto il continente, non tanto per la sua pericolosità, che non è diversa dal virus tradizionale, dal ceppo originario, ma quanto per la sua capacità di diffondersi. E quindi sono state messe al bando i voli dal Regno Unito in 40 nazioni, tra cui anche l'Italia. E molti italiani sono bloccati quindi in Gran Bretagna. Ne andremo a sentire alcune delle loro testimonianze tra pochissimo. Adesso ci fermiamo per il traffico. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. We in the UK fully understand the anxieties of our friends about COVID, their anxieties about the new variant. But it's also true that we believe the risks of transmission by a solitary driver sitting alone in the cab are really very low. And so we hope to make insomma lo state ascoltando, è il premier britannico Boris Johnson, dice: capisco le ansie per questa variante del virus, ma il rischio non è più alto. Intanto però sono rimasti bloccati a Londra oltre 200 italiani che ieri pomeriggio avrebbero dovuto prendere dei voli per tornare a casa per il Natale. Da 24 ore non hanno notizie ufficiali, una situazione di stallo che sta creando parecchi problemi a chi non risiede ad esempio a Londra e non può nemmeno pernottare in un hotel visto che sono chiusi a causa della crisi sanitaria. A fermare il viaggio di questi nostri connazionali è stata l'ordinanza firmata nel pomeriggio dal Ministro della Salute, nel pomeriggio di ieri chiaramente, dal Ministro della Salute Speranza, che di fronte all'emergenza variante Covid ha deciso quindi di interdire il traffico aereo dal Regno Unito. In realtà, come dicevamo, non è l'unico paese che l'ha fatto, sono ormai decine i paesi che hanno bloccato gli aerei dal Regno Unito. E fra questi italiani bloccati a Londra c'è Federica Boni. Buonasera. Ciao Valentina, ciao, grazie per aver chiamato. E fra queste persone, oltre a Federica, c'è anche Valentina Gobbi. Buonasera Valentina. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. Allora Federica, grazie a voi che nonostante questa situazione di grande confusione siete qui a raccontarci cosa sta succedendo. Lei abita a Londra da più di 2 anni, aveva comprato un biglietto per ieri domenica, il volo è stato cancellato, aveva fatto il tampone, poi è tornata a casa con la valigia. E adesso che succede? Cosa le hanno detto? Praticamente non ci sono altre comunicazioni della situazione, ma è abbastanza chiaro per tutti che non si può far niente se non aspettare tempi più calmi per poter tornare a casa. Ha provato per caso a prendere un treno, a prendere un altro mezzo? No, perché sinceramente sono anche stanca, nel senso dopo un giorno con 2 voli cancellati, perché ho preso 2 biglietti, perché uno me l'ha comunicato la sera prima, e aver fatto un tampone per averlo entro la sera, soldi spesi anche lì, e poi capisco anche l'emergenza sanitaria. E quindi ha deciso di rimanere a Londra? Per forza, Sto qua, dovevo tornare perché avevo una situazione grave in famiglia che purtroppo mia nonna si è spenta stanotte, quindi a questo punto siamo qua col cuore in pace. Così. Valentina Gobbi, anche lei aveva un volo di rientro in Italia, se non sbaglio per domani. Esatto, per domani. Io invece, a differenza dell'altra ragazza, sono arrivata qui che è iniziata la pandemia, quindi sono qui da dal 2020 e avevo prenotato il rientro in Italia per domani, il volo mi è stato cancellato, la compagnia aerea è stata gentilissima, mi ha mandato una mail e la possibilità di riprenotarlo una volta che fossero riaperti di nuovo i confini, ecco, per ritornare in Italia. Il problema è che io ho un contratto d'affitto che finiva appunto in questi giorni, quindi per la precisazione il 23, e quindi mi sono ritrovata un po' in alto mare perché dovevo trovare un'opzione B per riuscire a rimanere qui, visto che i voli erano stati cancellati, oltre per il fatto naturalmente che avrei tenuto conto della situazione sanitaria. Perché, quindi lei non aveva un posto dove dormire in pratica. Esatto. Esatto, esatto. Stamattina è stato davvero un delirio perché dovevo riuscire a trovare una sistemazione e in genere nel periodo natalizio qui a Londra, ma soprattutto durante il lockdown che stiamo vivendo, è molto difficile trovare un'altra stanza disponibile in doppia o in singola o quello che può essere un studio flat, ecco. E sono riuscita, dopo aver cercato non so quanto, perché su Booking o su altre realtà di navigazione internet un hotel, davano magari alcuni hotel aperti, ma effettivamente erano chiusi vista l'emergenza, sono riuscita a trovare una sistemazione e starò lì finché la situazione non si tranquillizza un po' e potrò riprendere il volo che ho prenotato per ritornare in Italia l'8 di gennaio. Valentina, lei aveva fatto il tampone? Era prenotato anche il tampone, sì, sempre in aeroporto, tutto, in aeroporto, okay. Tutto quanto prenotato, esatto, sì, grazie. Per le 48 ore. Federica, lei aveva fatto il tampone, era negativa? Sì, fatto sabato pomeriggio e negativo. Ovviamente, come dicono tutti, c'è il rischio che in quelle poche ore che ti separano dal volo uno si può pigliare qualsiasi cosa. E, vabbè, a questo punto rimarrà in Gran Bretagna e farà le feste da sola. Ma sì, pace, arriveranno tempi migliori per tutti noi. Grazie a Federica Boni e a Valentina Gobbi per aver portato la loro testimonianza. Di tantissimi italiani, sono oltre 200 gli italiani che ieri hanno affollato gli aeroporti, alcuni hanno dormito in aeroporto e hanno tentato di partire, ma non è stato semplice. Rimaniamo a Londra, vi facciamo sentire ancora il Premier Johnson che ha parlato ha parlato anche di Brexit. We're working with our friends across the channel to unblock the flow of trade as fast as possible. And the government at all levels is communicating with our Johnson friends in Paris. Johnson ha detto che ha parlato con Macron, con gli amici francesi, in realtà non della Brexit ma dello scambio di merci. La Gran Bretagna ha detto ha scorte a sufficienza, però c'è certamente un problema di approvvigionamento anche dei supermercati. Buonasera Giorgia Scaturro, corrispondente da Londra. Buonasera. Buonasera. Allora Giorgia, so che tu sei stata in un supermercato oggi e che in effetti è così. Ahimè, sì, ho provato l'esperienza e diciamo che queste nuove misure hanno avuto un boomerang sulle abitudini e i comportamenti dei britannici. Oggi ai supermercati non c'erano assolutamente distanze sociali, non c'erano code, si entrava senza essere disciplinati e anche poche mascherine dentro i supermercati, tutti ad accaparrarsi broccoli, insalata, che sono i vegetali, le verdure che i supermercati hanno fatto presente fra 48 ore potrebbero cominciare a mancare se il traffico fra i due lati della Manica non sarà ripristinato. È un'anteprima di una Brexit dovuta a una pandemia, ma sicuramente l'Inghilterra si sente più isolata, non è il sogno dell'isolamento che voleva l'Inghilterra, ma è un isolamento pesante. Immagino che la città, abituata ai fasti del Natale, alle luci, sia in una situazione così pesante. È una città molto triste e molto arrabbiata, innanzitutto per i retromarcia del primo ministro Boris Johnson, che prima ha aperto l'opportunità di incontrarsi con altre famiglie, altri tre nuclei familiari per 5 giorni, poi è tornato indietro per rispondere a questa nuova emergenza sulla variante di Covid, e ora a questo nuovo problema dei traffici fra i due lati della Manica, che sì, sono un po' una prova generale di quello che potrebbe succedere dal primo gennaio. Diciamo che Macron inizialmente ha detto: stiamo lavorando ad un protocollo sanitario per risolvere la questione in qualche ora. Dopo la telefonata di Boris Johnson ci stanno ancora lavorando, la situazione ancora non è sbloccata, quindi questo dà un po' l'idea di quanto in realtà i rapporti anche politici fra la Francia e la Gran Bretagna non siano dei più efficaci. Siamo in sospeso ancora con queste quote di pesca su cui la Francia sta battagliando, e questo sta tutto avendo una serie di conseguenze prenatalizie che stanno veramente rompendo il cuore dei britannici, e non solo, li stanno costringendo anche a rompere le regole di sicurezza per il Covid. Proseguono, si legge dalle agenzie, i colloqui tecnici fra gli esperti sul negoziato post-Brexit. Come tu ci dicevi, uno dei temi è quello della pesca, non solo simbolico, perché c'è battaglia fra un lato e l'altro della Manica, fra l'Inghilterra e la Francia. L'accordo resta difficile, ma niente proroga, si legge sempre dalle agenzie. Ma per quanto riguarda la politica interna britannica, credi che i conservatori chiederanno il conto a Johnson di queste misure così contraddittorie di negli ultimi mesi e di questa alla fine lockdown dell'ultimo minuto? Diciamo il livello di consenso nei confronti di Boris Johnson e anche il livello di ribellione nelle schiere dei conservatori è molto alto. C'è da dire che per essere franchi il primo ministro Boris Johnson si è trovato a gestire una emergenza epocale su tutti i fronti, a partire dalla Brexit, su cui era preparato, su cui è stato chiamato a governare il paese proprio per portare avanti la Brexit, ma poi la stangata del Covid, che nessuno si aspettava, e ora anche appunto di queste nuove varianti, e ci è rimasto un po' dentro. Resta da capire in questo momento come finirà la saga della Brexit. Poco fa Johnson, su richiesta dei giornalisti, ha risposto che comunque la del divorzio secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un'opzione ancora soddisfacente per il Regno Unito, e quindi questo darebbe un po' manforte ai ribelli conservatori. Ora siamo nel tunnel, il cosiddetto tunnel, quindi la fase a porte chiuse. Prima di Natale ci si attende qualche risvolto, si parla addirittura di una ulteriore concessione che Downing Street proprio in queste ore starebbe facendo all'Unione Europea sulla pesca, e quindi aspettiamo nei prossimi giorni di vedere dove si andrà a parare. Prima di lasciarti, Giorgia, ancora un minuto sulla questione dei vaccini. 500.000 persone in Gran Bretagna hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Come sta andando questa campagna? C'è adesione da parte delle persone oppure c'è perplessità, paura? La campagna sta andando avanti anche perché il vaccino avviene ad invito, quindi in questo momento sta andando così come ci si aspettava, e anche a seconda delle difficoltà logistiche del caso. Ricordiamo il vaccino da conservare a meno 70, quindi a questo ha reso un po' più difficile la somministrazione estesa che era stata pianificata. Siamo già partiti addirittura con la somministrazione presso i medici di base, quindi non più solo negli 70 ospedali specializzati dell'inizio. Quindi siamo a 500.000 persone, quindi siamo soltanto alla prima fase, alla prima dose del vaccino. Diciamo che abbiamo già però forato l'obiettivo di arrivare a 4 milioni di vaccinati entro la fine dell'anno, quindi sì, sta procedendo, ma non secondo i sogni degli addetti scientifici britannici. Grazie a Giorgia Scaturro per questa corrispondenza da Londra. Noi ci fermiamo per il meteo e continuiamo a parlare di Covid e di vaccini subito dopo. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. La situazione è una situazione complicata, che si aggiunge a una situazione nazionale, veneta, internazionale complicata. C'è questa mutazione che sembra sia stata intercettata forse 3 mesi fa ancora, non si è ben capito. Io ho letto tutto il documento dell'ACDC, nella relazione di questa mattina, di queste ore, dice fondamentalmente che ci sono degli aspetti che noi non possiamo trascurare. Lo avete riconosciuto, era il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che oggi ha detto che la variante britannica del Covid mette in difficoltà il Veneto, che in realtà era già in difficoltà da qualche settimana. Come sappiamo, l'aumento dei casi in Veneto è esponenziale, anche se bisogna dire che fanno anche moltissimi tamponi, esattamente il doppio rispetto alla Lombardia. Però abbiamo visto delle scene che non volevamo vedere, con gli obitori pieni in alcuni comuni come Treviso, come Legnago in provincia di Verona, e quindi l'utilizzo addirittura del cortile dell'ospedale in quest'ultimo caso per le celle frigorifere. Abbiamo un ospite proprio dal Veneto, Claudio Beldramello. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Medico, ha lavorato diversi anni con il QAM, che è un'associazione Medici con l'Africa, un'associazione di Padova, e ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in molti paesi africani. È specializzato in igiene, nella gestione di epidemie come il colera, la meningite e la malaria. Beltramello, lei che ha un'esperienza così vasta in territori difficili e per quanto riguarda le epidemie ha trattato questi casi, ho letto che diceva siamo in guerra in Veneto. A cosa esattamente si riferisce quando dice siamo in guerra? La preoccupa questa avanzata del contagio? Assolutamente sì. Lei pensi che in Veneto dall'inizio dell'epidemia ci sono stati in totale circa 200.000 casi. In questo momento sono positivi 100.000. Quindi in questo momento, in questo istante, la metà del totale dei casi sono in atto, di quelli acuti da febbraio. Quindi è una situazione veramente al limite del collasso del sistema sanitario veneto, e questo bisogna dirlo, perché non si può continuare a dire che va tutto bene, altrimenti i comportamenti delle persone ad essere continuamente rassicurati dal fatto che il presidente Zaia si era abituato a essere sempre il primo della classe, quando invece le cose vanno male e gli errori sono stati fatti, bisogna anche ammettere gli errori e dire che le cose vanno male e adeguare i comportamenti delle persone alla situazione reale. Invece ancora purtroppo molte persone della nostra regione in qualche modo si sentono autorizzate a, non dico fregarsene perché sarebbe una parola impropria, però a non essere così tanto preoccupate, per cui diciamo che si abbassano le mascherine al bar, il distanziamento, le compre di Natale, eccetera, eccetera, diciamo senza quel rigoroso controllo della trasmissione dell'epidemia che in questo momento sarebbe fondamentale. Questo è stato dovuto al volere a tutti i costi mantenere il Veneto in zona gialla. Ormai la cosa è nota che sono stati un po', diciamo, dati per buoni 1.000 posti letto in terapia intensiva, quando la realtà è che ne abbiamo attivati 650 e possiamo aumentarli di un po'. Quindi lei pensa che questi numeri non siano corretti, questi numeri divulgati dalla regione? Beh, non lo dico io perché varrebbe poco, ci sono state proprio anche prese di posizione ufficiale di molti sindacati sul concetto di attivabile e attivato. Allora, di attivato sicuramente non ce ne sono 1.000. Il problema è che se per attivabili intendiamo avere spazi e respiratori, ok, ma bisogna poi avere il personale adeguato, cioè io sono un medico con la specialità in igiene, non è che se mi metto a gestire una terapia intensiva sono capace, e così anche un altro medico che non sia un anestesista per dare, come dire, per definirla terapia intensiva, e così anche gli infermieri, non è che prendo un infermiere che fino al giorno prima lavorava in urologia e il giorno dopo è in grado di gestire bene un paziente in terapia intensiva. Perché è chiaro. Quindi, ci vuole il personale specializzato, questo... oltre che i macchinari. Non la voglio interrompere, ma le voglio far ascoltare un altro passo di Zaia, così lo commentiamo insieme. Soggetti che sono entrati o che entrano nel territorio veneto provenendo direttamente o indirettamente dal territorio della Gran Bretagna o dall'Irlanda sono obbligati a sottoporsi a test molecolare o antigenico da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende ospedaliere. Il presidente Zaia ha diramato questa ordinanza perché ipotizza evidentemente che il virus inglese mutato sia la base dell'andamento dell'epidemia veneta. Crede che possa essere così, dottor Beltramello? Allora, dubito, perché l'avrebbero intercettato i nostri laboratori e quindi, come dire, penso sia improbabile, ma non credo. Però diciamo che è un po' uno spostamento di attenzione che mi preoccupa, se devo dirla, dal punto di vista tecnico, mutazione o non mutazione, in questo momento c'è il problema in Veneto, quindi bene l'ordinanza per evitare l'eventuale arrivo della mutazione che peggiorerebbe le cose, ma mutazione o non mutazione, io darei, come dire, una visione nel presente, perché se noi spostiamo l'attenzione a dire beh adesso ci proteggiamo dalla mutazione, sembra che il problema sia futuro, futuribile, e invece abbiamo il problema adesso, siamo in guerra adesso, i medici negli ospedali, il personale tutto sta veramente facendo fatica, cioè voglio dire, non è che se le sono inventate i giornalisti le scene appunto che lei ha descritto in apertura, dove il numero di morti era talmente elevato che non si riusciva a gestirli negli spazi che normalmente negli obitori degli ospedali sono destinati. Quindi bisogna affrontare in modo congiunto, bisogna che tutta la società, quindi ovviamente il personale sanitario sta facendo la sua parte, deve essere messo in grado di farla. Parte della motivazione del personale, io tutti gli amici che lavorano clinicamente in prima linea vanno letteralmente fuori di testa quando escono dall'ospedale e vedono le persone, come dire, che in qualche modo sembra che siano molto distanti dalla realtà di disastro che stanno vivendo dentro i servizi sanitari. Quindi non c'è, quindi secondo lei, una percezione, perché non c'è stata un'indicazione precisa dalle istituzioni. Adesso negli ultimi giorni il presidente Zaia ha in qualche modo ricordato che i colori li mette Roma, quindi come dire ha spostato il problema su Roma, però in realtà per settimane orgogliosamente il Veneto no era giallo. Ho capito. Certo, mi scusi, ma abbiamo un minuto e ci tengo moltissimo a che mi risponda un'altra domanda. Sì. Ho visto che lei sottolineava il disastro, così l'ha chiamato, delle residenze per anziani e per disabili. Cioè ci sono dei focolai, dove precisamente? In tutto il Veneto purtroppo ci sono focolai in moltissime residenze per anziani, e adesso io i dati precisi nel dirle se sono il 50%, il 70%, questo non lo so, però comunque su questo le do certezza che purtroppo l'epidemia è entrata in numerosissime residenze per anziani, nel senso che nei giornali questi dati non sono disponibili, quindi chi ce li ha, io non ce li ho, non c'è un modo via internet per accedere a questi dati, però sentendo i colleghi, sentendo, leggendo i giornali eccetera, ci sono focolai purtroppo in moltissime residenze per anziani in tutto il Veneto. Sappiamo quando il virus entra la letalità dentro queste strutture diventa molto alta, molto anche alta. Lì il personale sta facendo l'impossibile per contenere l'epidemia, però ricordiamolo, le residenze per anziani hanno soprattutto degli operatori all'assistenza, gli OS, qualche infermiere e poi il medico che per qualche ora al giorno va nella struttura, non sono ospedali e si trovano a gestire quindi un carico di malattia che normalmente non è proprio di queste strutture. È chiaro, oltre al fatto che queste strutture sono state proprio studiate per favorire la condivisione la socialità, non l'isolamento, e quindi anche i percorsi sporco pulito eccetera, e l'isolamento è molto sono più difficile da contenere, RSA, chiaro. Agli ospedali. Grazie dottor Beltramello per essere stato con noi, ci ha parlato da Padova. Noi ci fermiamo, subito dopo parliamo di Zaki, che è in carcere in Egitto e ha scritto ancora una lettera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buonasera. Allora, dal 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, studente egiziano ma anche studente dell'Ateneo di Bologna, è in carcere in Egitto. Sabato ha consegnato una nuova drammatica lettera alla madre, che è stata diffusa oggi. In questa lettera dice che è esausto fisicamente e mentalmente. Riccardo, qual è la situazione e che cosa possiamo fare? Oggi è veramente uno spartiacque, perché dopo 10 mesi e 13 giorni da Patrick arrivano parole che non hanno più speranza, hanno solo rimpianto, hanno solo delusione, hanno solo depressione. Rimpianto per non poter stare a Bologna al secondo anno del suo master, rimpianto per non poter fare le feste del Natale copto con la sua famiglia, il dolore per una detenzione crudele e inumana, e siamo preoccupati perché oggi veramente è una giornata che fa la differenza tra il Patrick di prima, che aveva un po' di speranza, e il Patrick di oggi che è cupo e disperato. Questo rende ancora più urgente la richiesta a chiunque ha modo di fare il possibile, anche più del possibile, per ottenere la sua scarcerazione. 3 giorni fa il ministro degli esteri Di Maio aveva detto: lavoriamo in silenzio per portarlo a casa. Sempre 3 giorni fa il Parlamento europeo si era espresso positivamente, chiedendo la verità per Regeni e che Zaki tornasse libero. Aveva parlato proprio Davide Sassoli. Da questo punto di vista c'è una certa pressione da parte dell'Europa, ma pare che non si arrivi a farsi sentire dal Cairo. Beh, sono state 2 notizie positive: la risoluzione del Parlamento europeo approvata ad ampia maggioranza e le parole del ministro Di Maio. Ora, noi abbiamo fiducia nel ministro Di Maio, chiediamo che a quelle parole, a quell'impegno seguano dei fatti. La vita di Patrick è nelle mani di molte persone, compresi noi attivisti per i diritti umani, la comunità degli amici di Patrick, ma anche le istituzioni italiane, e quindi vorrei chiedere veramente al ministro degli esteri Di Maio di dare seguito a quell'impegno cui abbiamo dato credito, però ora è questione non più della prossima udienza, quando sarà, di mandare lì qualcuno a vedere che succederà, ma è questione di, se non di ore, di giorni, e quindi è veramente urgente adesso. Poco tempo fa Patrick aveva scritto una lettera, la prima, in cui aveva usato dei toni drammatici, sconfortati, e voi vi eravate detti già preoccupati. Che cosa temete esattamente? Che le condizioni di salute fisica e mentale di Patrick peggiorino. Avevamo visto delle avvisaglie, sì, e questo ci aveva preoccupato, ne abbiamo parlato anche con voi. E questa lettera che arriva oggi, che risale a 48 ore fa, a sabato, l'incontro con la famiglia in carcere, è la conferma. Quindi non so più come dirlo, è una situazione disperata. Noi rischiamo di vedere questa vicenda precipitare rapidamente, e quindi non c'è molto tempo da attendere. C'è qualcosa che va fatto in questi giorni, dal punto di vista dei rapporti tra Italia e Egitto, chiedere che Patrick sia scarcerato immediatamente, senza condizioni, che possa passare le feste di Natale con la sua famiglia al Cairo, perché sarebbe il secondo anno che non le passa con la sua famiglia, il primo perché era a Bologna, il secondo perché è in Egitto, però è in carcere. Il carcere di Tora, in che situazione vive Patrick? Possiamo immaginarcelo, la cella, la situazione di detenzione in Egitto, qual è? Il carcere di Tora è uno dei luoghi di detenzione più inumani dell'Egitto, un enorme centro penitenziario con più sezioni, una delle quali è chiamata lo Scorpione, dalla quale di dicono, quelli che la dirigono, che non si esce vivi. Patrick non sta lì, ma sta in una sezione per detenuti politici. Ha fatto sapere tramite la sua avvocata una settimana fa che ha trascorso tutti questi mesi di detenzione dormendo per terra, ha dolori fisici, soffre. In quella prigione è entrato il Covid, ha fatto vittime tra i detenuti, tra i secondini, tra il personale amministrativo. C'è stata una rivolta sedata con almeno 15 esecuzioni sommarie di condanne a morte emesse rapidamente. Voglio ricordare che Patrick è asmatico e dunque è un soggetto particolarmente a rischio di contrarre il coronavirus. E in queste situazioni, in posti così ristretti, è ovviamente facile che questo possa accadere, no? E purtroppo è facile, è già successo, ci sono state diverse vittime e questo non fa che peggiorare lo stato di salute psicologica di Patrick. In questa lettera che ha trasmesso attraverso la madre parla della mancanza di volontà anche di uscire dalla cella, perché tanto sa che fatti pochi metri tornerà indietro. E sono parole che hanno riempito di angoscia tutti noi. Io vorrei che venissero lette anche dai rappresentanti delle istituzioni del nostro paese, perché avvertano quel senso di urgenza che stiamo avvertendo noi, che avverte la famiglia, che avvertono tutti qui in Italia. E veramente dobbiamo fare più che il possibile per far sì che nei prossimi giorni succeda qualcosa di positivo per Patrick. Lo speriamo. Grazie Riccardo Nuri. Grazie, buonasera. Cambiamo completamente argomento, abbiamo finalmente una buona notizia, perché Alex Zanardi, ricoverato a Padova, sta lentamente migliorando, ha fatto un cenno alla moglie, vede, sente, secondo i sanitari, ancora non può parlare. Però finalmente, appunto, per lui c'è una buona notizia e anche per noi, no Dario Ricci? Buonasera. Sì, buonasera Valentina. Direi che siamo tutti a spingere Alex verso questo ennesimo prodigio della sua vita. Sicuramente le notizie che arrivano sono confortanti, segno di un ulteriore piccolo grande passo miglioramento dopo quell'incidente che lo ricordiamo a metà giugno scorso nei pressi di Siena con la sua handbike, gli ha provocato appunto queste gravi conseguenze. Da qualche settimana si è trasferita appunto nel nosocomio Patavino, più vicino alla residenza della moglie e del figlio. Adesso questi segnali incoraggianti di dialogo con i propri cari e col mondo esterno, quindi veramente forza Alex Zanardi, vogliamo restituirti un pochino dell'energia e della forza che te ci trasmetti ogni giorno, quindi è un circolo virtuoso che speriamo davvero alimenti l'energia di Alex. Sì, non soltanto per lo sport, ma proprio per come simbolo di una persona. È un ambasciatore dell'Italia nel mondo, diciamo. Esatto. Così, ecco, lo sportivo quasi passa in secondo piano quando parliamo di campioni come Alex Zanardi, Bebe Vio, che tra l'altro sono i campioni più richiesti e ammirati del nostro sport, chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa, due grandissimi, ma appunto sono ambasciatori dell'Italia nel mondo, quasi definirli sportivi è quasi limitativo. Sì, grandi personalità, persone che hanno una forte resistenza e che tu hai raccontato spesso nella tua trasmissione, tra l'altro. Domani però riprende il campionato, anticipi. È una Serie A che corre dritta verso la breve pausa natalizia, un calendario imposto un po' dall'emergenza sanitaria e poi dal fatto che appunto a giugno speriamo comunque si disputino, anzi sicuramente si disputeranno i campionati europei e speriamo anche con il pubblico. Domani 18:30 Crotone-Parma, alle 20:45 poi Juventus e Fiorentina. Nel frattempo è saltata un'altra panchina in Serie A, Valentina, perché il Genoa ha esonerato Maran, al suo posto torna Ballardini. Dico torna perché pensa è la quarta volta che torna sulla panchina del Genoa, quindi diciamo che quantomeno conosce l'ambiente, ecco, insomma. Ieri c'è stato il gol più veloce della storia della Serie A. Sì. E invece, come tu mi hai suggerito, perché non è merito mio, ma questo no, collegamento me l'hai suggerito tu. Si parla anche off record, noi creiamo un'architettura, insomma. E invece uno degli animali più lenti, il tapiro, ha fatto discutere per Sì, Gomez. Ieri c'è stato questo gol lampo di Leao, 6 secondi e 76 centesimi, roba da far impallidire Usain Bolt, che immaginiamo in Giamaica un po' invidioso del portiere portoghese del Milan. Oggi il tapiro doveva essere consegnato, il tapiro d'oro, da Valerio Staffelli al Papu Gomez, che è in rottura ormai prolungata con il tecnico Gasperini all'Atalanta. Qualcuno addirittura ha detto che il Papu ha reagito in modo violento nei confronti di Staffelli. Poi via Instagram l'argentino ha detto che invece ha preferito non rispondere a questa provocazione. Insomma, diciamo, per una volta protagonista il tapiro. Speriamo da domani sera di nuovo gli uomini gol, insomma. Da domani sera tu però non ci sarai per raccontarci questo campionato, come speravamo. Una rosa molto ampia, come sapete, facciamo il turnover anche nella redazione sportiva, quindi immagino che tra Carlo Genta, Giovanni Capuano, poi insomma, mercoledì torno, insomma. Mercoledì quindi ti aspettiamo allora. Dario preparo Ricci, la grazie. Giacca, preparo lo smoking per la serata di gala. Grazie, a mercoledì. Grazie a te. Grazie Dario Ricci. Prima di chiudere, una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie: bar, ristoranti, negozi chiusi, alberghi aperti, ma solo gli ospiti che pernottano possono usufruire dei loro servizi, libertà di movimento in tutto l'Alto Adige. Via libera quindi in Alto Adige alla cena con i parenti stretti. È consentito festeggiare con nonni, genitori, figli, partner, ma con una forte raccomandazione a mantenere basso il numero delle persone. È questo l'ordinanza firmata dal governatore Alto Atesino proprio questa sera. E questa era l'ultima notizia per le nostri 60 minuti. In regia Valeria Bernardi, in assistenza Matteo Ramelli, in redazione Alessandro Schirano. Fra pochissimo le notizie, invece per Effetto Notte l'appuntamento è domani alle 21:00.